È una strana luce quella che io vedo dentro gli occhi tuoi. Provo a fare ombra, cambio angolo, ma non risolvo poi un granché. Un sorriso stupido, sento un brivido. L'atmosfera è un po' pesante, Dio. Sdrammatizzo e ti offro un tè. Cosa c'è che non va? Non ho voglia di te. Allora provo col caffè. Lo capisci sì o no? Non voglio più sentire. Non me lo dire. Rifletti ancora. Dici sul serio. Io cerco di distrarti un po', alzo la radio e la TV. Le mani mi sudano, le orecchie mi bruciano. Lo dici, non ti amo più. Io dico il dollaro va su, cerco di non sentire. Non me